La campagna è nata più di 10 anni fa e nel 2017 è riuscito a ottenere un trattato che mette al bando, che proibisce le armi nucleari. Se siamo qui a Vienna è perché questo trattato ormai è entrato in vigore per gli 61 paesi che l'hanno già firmato, quindi in questi giorni nella capitale austriaca si incontrano i paesi che l'hanno firmato. Quindi è un incontro ufficiale, formale degli stati, che è stato preceduto da alcuni giorni della società civile, questo forum per la messa al bando delle armi nucleari, e oggi da una conferenza sugli impatti umanitari delle armi nucleari, cioè su quanto provocano dolore, distruzione e morte, anche solo per la loro preparazione e per la strutturazione degli arsenali. Noi avevamo chiesto all'Italia di essere presente non solo oggi, e lo è, sull'aspetto umanitario, che è tanto importante per il nostro paese, ma di essere presente anche alla conferenza degli stati parte di questo trattato, perché sebbene l'Italia, come tutti i suoi alleati NATO, non abbia ancora firmato, continua a ripetere di volere un mondo senza armi nucleari, e quale migliore luogo di una riunione degli stati che hanno già deciso di mettere al bando per discutere su questo tema che purtroppo la guerra in Ucraina ha riportato al centro dell'attenzione. Ti faccio una domanda tecnica sul trattato, appunto, per la messa al bando delle armi nucleari. Per diventare effettivo, operante, serve, come dire, la ratifica concreta di diversi paesi che hanno firmato? Sì, ma questo l'abbiamo già superato ed è proprio per questo motivo che siamo già a Vienna. Dovevamo superare 50 ratifiche, e ricordatevi che all'inizio della campagna ci dicevano che non avremmo mai ottenuto nemmeno un testo, figuriamoci un voto, figuriamoci le ratifiche necessarie. Quindi i 61 paesi che hanno sottoscritto, ratificato questo trattato, oggi hanno nel loro corpus giuridico una norma che gli proibisce di possedere, utilizzare, far transitare, promuovere, costruire, favorire, minacciare l'uso delle armi nucleari. Noi vorremmo un mondo in cui tutti gli oltre 190 paesi delle Nazioni Unite avessero una norma del genere. Quindi è una norma, è una regola, non è purtroppo ancora la regola di tutti, però è sicuramente una strada. In passato ci dicevano: ah, sarebbe bello un mondo senza armi nucleari, ma non c'è una regola che ce lo permette. Oggi la regola esiste, oggi è il TPNW, che è l'acronimo inglese di questo trattato, e quindi noi come società civile internazionale, sapendo che l'opinione pubblica italiana non solo sarebbe a favore di un disarmo nucleare completo, oggi noi siamo ancora qui a spingere affinché anche il nostro paese, soprattutto le potenze nucleari, decidano di liberarsi da queste armi inumane. L'assenza dell'Italia dobbiamo leggerla come un messaggio politico, una presa di posizione chiara? Alla luce di quello che ha sempre portato avanti, come argomento l'Italia, sappiamo che la posizione è quella di essere assenti. Siamo ancora più meravigliati alla luce del fatto che comunque le nostre sorelle campagne nelle altre nazioni in qualche modo hanno ottenuto una risposta da parte di coloro delle altre nazioni che per il nuclear sharing hanno, come l'Italia, testate nucleari sul loro territorio, e sto parlando appunto di Belgio, di Olanda e di Germania, che hanno invece deciso alla fine di partecipare. Saranno quindi, l'Italia sarà l'unica assente coloro che ospitano testate nucleari statunitensi sul proprio territorio a questa conferenza. Questo ovviamente ci dispiace. Ovviamente siamo anche contenti che partecipino oggi invece alla conferenza sull'impatto umanitario, ma noi continueremo a dire: Italia, ripensaci, perché comunque la speranza non solo è l'ultima a morire, ma riteniamo che attraverso il dialogo e attraverso i mezzi pacifici si possa comunque continuare a sensibilizzare, in questo senso incoraggiare il governo italiano. Quindi questa mancanza, di coraggio politico al momento è abbastanza lampante, ma non siamo assolutamente demoralizzati, perché comunque prima o poi si prenderà atto che il trattato sulla proibizione delle armi nucleari è la nuova norma. Dà voce alla maggioranza degli stati che non accettano questa logica secondo la quale queste armi di distruzione di massa garantiscano la sicurezza. Questa sicurezza l'abbiamo visto ancora di più durante la recente, purtroppo, invasione della Russia in Ucraina. Sono state utilizzate addirittura come strumento di ricatto. Quindi parlare oggi, tutte le teorie su cui si basa una posizione che ancora sostiene l'utilizzo, l'utilità delle armi nucleari, la cosiddetta deterrenza, no? La cosiddetta deterrenza, che è assolutamente, dobbiamo passare dalla distruzione reciproca assicurata al disarmo reciproco assicurato, soprattutto per quanto riguarda le armi nucleari, perché pongono una minaccia all'esistenza stessa della vita sul pianeta Terra, indipendentemente da chi le usa. La minaccia di uso è comunque una cosa per noi inaccettabile, perché va contro il rispetto della dignità della vita, e qui, come Senza Atomica, Rete Italiana Pace e Disarmo in particolare, stiamo rappresentando la volontà della popolazione, della società civile italiana, e siamo sicuri che alla fine le orecchie anche del governo sentiranno i motivi veri per cui è necessario essere presenti, anche per sottolineare eventuali posizioni non chiare, o comunque che vanno rettificate riguardo proprio al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Però ecco, esserci all'insegna del multilateralismo è qualcosa che ci aspettiamo tutti, da parte del nostro governo.